tua finestra, fammi facer la mia. Sto sempre sulla via, lei sola sospirà. Non troverà di pace, fom giorno del giorno, sempre per stargli attorno, per Dio gli ami soffrì. Oi mari, quante notte perduto per te, fammi dormire, stretto al sonno sì tante con te. Oi mari, quante sogno perduto per te, fammi dormire, oi mari, parra che ci si schiuda un fil della finestra e Maria con la mia un segnora mi fa. Suona chitarra mia, Maria si è ridestata, che bella serenata lei voglio cantare. Oi mari, quante notte perduto per te, fammi dormire, stretto al sonno sì tante con te.